YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a Radio Tube, un nuovo appuntamento, anzi direi anche l'ultimo appuntamento con la trasmissione. No, ma di quest'anno scolastico. Io per l'ultimo, va bene. Perché non si non sa mai. No, con la trasmissione di Radio 24 sì. Che vi fa ascoltare l'imperdibile, lo dico ancora, l'imperdibilissimo, e dico anche per l'ultima volta il perdibile della settimana tra TV, web TV, social TV per la 57. Puntata quest'anno. Dunque, siccome su Twitter si sta sempre nei paraggi e noi staremo sempre nei paraggi, voi potete sempre scriverci utilizzando i nostri account di Twitter che sono @MartaCagnola, @DiBellasio, oppure nulla vieta anche durante agosto, l'estate, ovunque sarete, l'hashtag RadioTube. Che bello, che settimana intensa. Sì, molto intensa di politica, di sport, sì, di purtroppo politica estera, sì, e di cose complicate. E anche di cose sorridenti però, dai. Sì, di spettacolo, di persone che danno spettacolo. Sì. Cosa allora, è successo? Dai, lo sanno tutti. È successo in Perù. È successo in Perù, a Lima. In Perù. Tu non sai, Quando vai in Perù cosa succede? Io adoro il Perù, per molte ragioni. Vai in Perù e fai un concerto in Perù e succede che però all'ultima canzone, l'ultimo bis, sali sul palco non proprio vestita. Ma credo che no, ma è, sali con una specie una regola, di accappatoio. Penso del teatro, penso che ci siano delle ragioni sceniche. Perché allora, ti devi cambiare in fretta, allora, quelle cose. Posto che secondo me Laura Pausini fa quello che vuole e nessuno le dice Laura sbrigati a salire sul palco, lei l'ultima canzone l'ha cantata con questo accappatoio e il finale canzone lo sanno tutti, ma noi ve lo facciamo rivedere alla radio. Vedetelo bene. E guardatelo con attenzione, è andato così. Vabbè, io la tengo come todas. E no, si è aperto il vestito e se qualcuno avesse mai avuto dei dubbi. Secondo me questo è meglio di un saggio sulla comunicazione al tempo della crisi. Mm-hmm. Cioè, ci sono fior di PR, di spin doctor che ti insegnano cosa devi dire, come devi agire, come ti devi comportare. Tu, per esempio, me lo insegni per quanto riguarda la radio, quando ti succede qualcosa di imprevisto. Lei è stata bravissima. Lei è stata rapidissima. Ha ribaltato in uno slogan in positivo. C'è già chi ha proposto, fate le magliette, no? Le hanno già fatte. Io sai che ho una timeline di Twitter molto indossi, glamour. Non la indosso ancora. Anche perché non vorrei. Scritto? No, guarda, io sono impazzita in particolare per un tweet del mio preferito che è Cristiano Malgioglio, @Malgioglio. Sì. Sì, che ha twittato: mi chiedete in tanti cosa penso dell'accaduto della Pausini. Niente. Era successo anche a me in Honduras. Sempre in America Latina, sì. Ma com'è? E poi ha scritto: ma. E quindi non so cosa voglio dire. Io ho provato a rispondergli su Twitter, ma non mi ha chiarito. Ma vanno a fare questi tour là? Va bene. Sì, lui era in Honduras ed è successo anche invece a Cristiano Malgioglio. Invece è stata Simona Siri a scrivere, le magliette le avete già, ne voglio una. Sì, giusto? Sì, su le magliette, allora le mando l'indirizzo di chi le ha fatte. Invece tu mi hai segnalato questa vignetta molto molto carina. Però siamo in par condicio perché Simone Baldelli è anche un deputato, credo. Però è bravo a fare molto bravo, molto bravo. Fa anche molto bene le imitazioni, però fa anche vero? Le vignette. Le devo leggere io dal tuo tablet? Sì, leggi. Ci vedo ancora, tablet. Nonostante un inizio di presbiopia. Dunque, secondo Cottarelli mancano le coperture, dice un signore leggendo il giornale, perché c'è stato il caso Cottarelli questa settimana. Uh-huh. E l'altro risponde, è l'effetto Pausini. Mancano le coperture, è l'effetto Pausini. Ah, bella questa. Possiamo soprattutto sulle interviste di questa, sulle polemiche politiche di questa settimana, perché io ho ascoltato tutte le mattine la rassegna stampa di Radio 24 che hai fatto per tutta mattina. Grazie. L'ho ascoltata tutte le mattine. Voltiamo pagina, come dicono quelli bravi. Voltiamo pagina. andiamo un po' all'estero. Sì. Sì. Chiudiamo l'accappatoio, che qua si sta guardando delle cose che sono scivolate fuori. Basta. Sì. Andiamo un po' agli esteri. Insomma, sì, tante brutte, bruttissime notizie. Però sorridiamo un po' perché l'ultima vogliamo raccontare di cose un po' più lievi. A me è piaciuta molto questa che sempre mi hai segnalato tu. Questa me l'hai segnalata tu tramite una segnalazione del blog del nostro sì, amato. Che diciamo solo sempre. Non-fup, perché siamo tranquilli. Sì, infatti, un account, si può dire. Sì. Sì, si è un po' immedesimato in questo capo della comunicazione, portavoce, niente proprio di meno che del presidente Obama. Vabbè, dobbiamo dirlo, non-fup sì, fa il capo della comunicazione del presidente Renzi. Ecco, diciamolo. Allora, cosa fa il capo della comunicazione di Obama? La devo spiegare o prima lo guardiamo? Allora, ascoltiamolo un pezzettino, mostriamolo un pezzettino alla radio, perché così entriamo nell'atmosfera, Josh alziamo Ernst i telefoni. The president's come in Kansas City, they get to have dinner with him. Hello. Hello, is this Becky? Yes, it is. Hey, Becky, this is Josh Ernest calling from the White House. Hi, Josh Ernest. How are you? Hey, Mark, it's Josh Ernest calling from the White House. Hey, Victor, it's Josh Ernest calling from the White House. Hi, Valerie, this is Josh Ernest calling from the White House. C'è questo Josh Ernest che continua a dire, ciao, sì, sono Josh Ernest, telefona a persone dicendo cosa? Dunque, praticamente dice, il presidente ieri sera, prima di andare a dormire, spiega anche bene come e quando, ha letto la lettera che tu hai scritto alla Casa Bianca. Caro gli è Barack piaciuta Obama. Molto, caro Barack Obama, siccome sta progettando di venire a fare un giro a Kansas City, vorrebbe organizzare una cena presente la persona che ha scritto questa lettera. Allora, c'è chi si mette a piangere, c'è chi non ci crede, c'è chi risponde. È una forma, ovviamente, di campagna politico, elettorale, insomma, ci sarà midterm, tutte queste cose qua, quindi... Bella, però mi è piaciuta. Carina l'idea, poi c'è il video del portavoce che proprio telefona, quindi... Eccolo, abbiamo un altro pezzettino. So, would you be willing to have dinner with the president on Tuesday night? Oh, yes. Yes. Does that sound like fun? C'è il nostro Roberto in regia che ci segnala che l'anno scorso i calciatori della Roma telefonavano ai tifosi per rinnovare l'abbonamento. Parleremo di calcio. Non mi hai detto niente questa volta. No, è tutta però una la cosa bella è che nel mondo anglosassone la comunicazione politica è una cosa di cui non ci si vergogna. Cioè, è legittimo fare delle cose che assomigliano alla propaganda. Quando dici, farle ogni volta in modo fai qualcosa che ti devi difendere. Eh sì, perché ti dicono... In che senso? Qual era l'allusione? Perché, non lo so, ad esempio, la prima cosa che mi viene in mente a proposito del nostro viaggio di quest'anno nell'Italia vista dai social sono state le foto della Boschi che tornava dall'Africa. Ah sì, quando ti dicono, è propaganda. L'hai fatto apposta per fare. Ma la comunicazione politica esiste, diamo una notizia. Tra le altre cose degli esteri che mi sono molto piaciute questa settimana, appunto non voglio citare le cose che ci hanno fatto soffrire, che ci continuano a inquietare, sono stati i selfie delle donne turche. Bellissimo, col sorriso, i sorrisi delle donne turche. Sì, l'invito alle donne a ridere di meno in pubblico, ma quando mai noi donne turche sorridiamo molto? No, io non sono turca, anche se devo confessarti che quando sono stata in Turchia mi parlavano tutti in turco per ragioni e tu a me probabilmente mio. Parlavi anche quella lingua, o è l'unica che non parli? No, il turco così ti il manca. Turco proprio mi manca un po'. Vabbè, continuiamo. Vabbè, tra poco sì, il nostro, così facciamo un po' di bilanci. Sì, di bilanci, ma non lo so. Di resoconti. Sì, guardiamo anche un po' quello che sta per succedere, sì, anche l'anno prossimo. Ad esempio, noi nella scorsa puntata ci eravamo salutati lanciando una domanda sulla seconda stagione di Gomorra, che anche il nostro Roberto in regia sta aspettando. Vabbè, tra tutti. Poco. Sì. Parliamo, non di proprio della nuova stagione. Non dell'ufficiale, diciamo. No, beh, lo scopriamo tra poco dopo il... Sei preparato? Ah, il... c'è il traffico. Radio Tube. Beh, allora, vi siete informati sul traffico, che diciamo che in questi sabati di inizio agosto è quanto mai importantissimo. E noi invece possiamo continuare con il secondo blocco della 57esima e ultima puntata di Radio Tube. Di quest'anno scolastico. Tube. gli piace definirlo anno scolastico. Ho imparato un sacco di cose. Hai imparato un sacco di cose? Sì, che sì, bene. Sì, con te Marta. Sono contenta. Grazie. Ad esempio, quest'anno abbiamo parlato tanto di televisione. Sì, sì, sì. Beh, sai, TV, social serie TV, TV, serie TV. Quale ti è perché piaciuta particolarmente? TV... Ecco, no, è stato tutto l'anno un derby tra House of Cards e Gomorra, come per tanti. E sono molto indeciso, perché nel durante preferivo House of Cards, poi alla fine mi ha svoltato in positivo Gomorra. E per cui il finale, ho preferito il finale di Gomorra. Il finale di House of Cards non c'è, in un certo senso. Chiediamo un parere alla nostra critica televisiva di Ma riferimento di più, di Radio alla di nostra... più. Cassazione televisiva, la nostra cassazione televisiva. Buonasera Stefania Carini. Buonasera, esagerati adesso, cassazione. Beh, ormai non diciamo più neanche per chi scrive, beh, insomma, Corriere.it, Europa, poi fa una bella trasmissione che si chiama Mainstream su Rai 4. Pure. Beh, certo, ah, sei, giusto, mi sei è vero, no, no, sei è quella. Distrae, no, pensavo la nuova. No, ma comunque anche okay. L'ultima puntata, non c'è niente Rai da 4. Fare, si distrae. No, non mi distraggo, sono pronto. Allora, Gomorra, cassazione, Stefania, cosa dici tu di questo dilemma che ha sollevato Daniele? Ma secondo me in realtà quello che l'ha colpito in Gomorra è che abbiamo visto per la prima volta una realtà italiana, un racconto italiano, storie italiane, ma raccontate come gli americani. E dunque forse questo che lascia un bel sapore in bocca e quindi si inizia, per la prima volta si può essere orgogliosi di un prodotto italiano e quindi preferirlo anche ad House of Cards, che dal mio punto di vista è sicuramente molto bella. Devo dire che io ho visto anche alcune puntate della serie originale, quella del 1990 della BBC, e beh, se pensiamo che sono anni e anni fa, quella era ancora più scioccante, perché la visione della politica era la stessa, però parliamo del servizio pubblico del 1990, e allora forse House of Cards è sì innovativa perché è su Netflix, ma come tipologia di racconto non è tanto distante da quello che abbiamo sempre visto anche su altre reti televisive via cavo generaliste americane. Quindi forse per questo che Gomorra ci ha colpito di più, House of Cards magari ci aspettavamo qualcosa di meglio, pur bellissima, innova dal punto di vista distributivo, non tanto narrativo, ecco. Cioè non è abbastanza provocatorio, era più provocatorio lo stesso esperimento negli anni 90 che questo oggi? Diciamo che sono due cose diverse. Detto questo, 20 anni fa, o forse più di 20 anni fa, fare in prima serata, dopo l'era Thatcher, portare sullo schermo il libro del suo ex braccio destro che critica quel tipo di approccio, beh, sicuramente gli inglesi sanno quello che fanno e sono molto più spudorati in alcuni casi, forse più degli americani. Detto questo, Kevin Spacey rimane insuperabile nel suo ruolo. Certo. Intanto vorrei segnalarvi che lunedì sera Gomorra sbarca anche su Sky Atlantic inglese. E quindi Gomorra... Doppia, come lo doppiano? Sarà stupendo. Secondo me Gomorra sarà sottotitolato integralmente. Non lo so, lo scopriremo lunedì sera. Collegandoci con Sky. Ma no, ce lo faremo raccontare dalla Gran Bretagna. Ma... sottotitolano anche Montalbano, quindi credo quindi grande rispetto. Vabbè, però questo è un altro dibattito in rete culturale che potremmo fare in una prossima puntata, se ce ne saranno, sì, ancora esatto. No, culturalmente non molto elevato, scopriremo solo dibattito. Vivendo, come diceva il poeta. Però le cose funzionano se sono, questa è una cosa che abbiamo imparato quest'anno, se di una cosa parodiate, se di una cosa c'è la parodia, quella cosa è di successo. Infatti io sto, sai, come quelli che hanno l'account finto. Che sì, per... tu vuoi un... Sì, non lo fa nessuno il mio fake, aprilo. Lo faccio io, saprei anche come chiamarlo, ma non lo posso dire. Ecco, non diciamolo, non posso svelare certi segreti. C'è Rocco all'ascolto, ecco, che saluto. Non lo possiamo svelare. Ma parodie, noi abbiamo già parlato di questo gruppo di napoletani che adoriamo e che mano a mano che ne parliamo, non perché ne parliamo noi, ma perché ovviamente il mondo li sta scoprendo, stanno diventando importantissimi, cioè milioni di visualizzazioni. In questo periodo si sono dati alla parodia di Gomorra e hanno causato un delirio in rete. Guardiamo insieme alla radio il primo episodio di questa parodia degli effetti di Gomorra sulla gente. Buonasera, signor Cavastano. Sono 15,50 euro. Io non voglio niente a te. Mi capite? Tu come non puoi sbagliarci? Ma signor Cavastano, è stato lei ad ordinare le due pizze e cinque crocchè. Ma chi ci faccio? Ma ci fa sempre così. Ma non le posso riportare indietro? Che cosa dico al mio capo? Non capisco. Ah, non capisce? E mo ti spieghi. Quando stavi là in Honduras se stavi in una capanna. E insieme a me c'era un'americana che parlava perché teneva paura. Una sera gli honduregni mi mettevano con una macete a mano e gridavano a Cirala. A Cirala. E pregavo che qualcuno mi veniva a salvare, che tu mi veniva a salvare. Ma niente. E continuavano a lucare a Cirala. Se no a Cirima noi a te. Allora ci abbia tagliato prima capo, poi braccio. Ha ci fatto pizza pizza. Ma capisci? Le taglio la pizza? Sta senza pensiero. La pizza la devo tagliare o no? Viva! Ha già capito se mi posso fidare? Ma è una cosa disgustosa, signor Cavastano. Sta senza pensiero. Beh, tutta settimana tutti. Che tutti scrivono su Twitter, su Facebook, sta senza pensieri. Loro che come è l'hanno un po' come Enrico stai sereno, eh? Io te lo dico, stai sereno e stai senza pensieri. Ah, vedi. Torna. Anche l'Honduras è tornato, peraltro. Anche l'Honduras di Malgioglio. Ci siamo divertiti ad applicare le frasi ricorrenti e già cult in un contesto paradossale, spiegano i The Jekyll, il citazionismo tipico italiano estremo in ogni frangente. Loro avevano già fatto delle parodie con Don Matteo, però Stefania, in questa si sono assolutamente superati. In questo si sono superati perché hanno dimostrato di conoscere, come hanno dimostrato anche in altri loro lavori, di conoscere i meccanismi del racconto di genere, del racconto televisivo e del racconto seriale, perché se si fa una parodia bisogna conoscere qual è il linguaggio da parodiare per poi appunto svelarne i meccanismi. In questo caso qual era il paradosso di Gomorra che hanno messo in evidenza? Il fatto che il linguaggio utilizzato dai protagonisti, che doveva essere realistico, perché l'idea era comunque una dimensione realistica di Napoli, di Scampia, era in realtà comunque una costruzione di immaginario, ricalcata ovviamente su una lingua che esiste, ma comunque con delle sue invenzioni, sta senza pensiere e così via. Ecco, prendere quel tipo di linguaggio che pare realistico, in realtà ripeterlo all'infinito ne svela il meccanismo alla fine immaginifico e diventa qualcosa di molto ironico, di molto divertente e oltremodo virale, perché comunque il video è andato benissimo e devo dire che secondo me Sky dovrebbe fare un monumento a quelli ai The Jackal, perché certo, di sicuro questi video hanno fatto di più di molte interviste, come dire, rilasciate da Saviano, in cui lui era fin troppo, come dire, orgoglioso della sua creatura, che sembrava una creatura solo sua, come sappiamo il racconto seriale in realtà ha molti padri. E loro hanno dimostrato in realtà e hanno sottolineato il linguaggio realistico ma allo stesso tempo immaginifico, che è diventato conosciuto ormai da tutti gli spettatori, e ne hanno tratto un video capace poi di andare sul web. Devo dire che sono anche molto bravi come attori, ecco. Sono deliziosi, mi fanno impazzire. L'attore tra l'altro, secondo episodio l'hanno presentato al Giffoni Film Festival, ma come diceva poco fa Daniele, se il segno del successo è la parodia, il segno del successo della parodia è la parodia della parodia. Ed è arrivata la siamo parodia della metaparodia. Ormai siamo alla metaparodia. Questi sono i Catanap, perché il Catanap. L'effetto di Gomorra, la serie sulla gente, ha fatto presa anche sulla Nonna Rosa e hanno coinvolto Nonna Rosa, che ha fatto la parodia della parodia. Eccola qua. Ciao nonna, tutto a posto? Ciao Bulle. Posso entrare, nonna? Non ci pensa ad aggirare la salsa e ci vai. Ma con la salsa? Strunge, stazzica una parte. Ah no, ma tu sferza capo. Io non perdo mai il cilu. Nonna, ma quale ciluzzo? Scommetto che ti chiami Noemi? Noemi? Ma posso mai chiamare Noemi Gustavo? No, sono tuo nipote, sono Fernando. Ma ci vediamo, ha già ci sarà. Ma poi, ha già capito. T'hai visto pure tu il video parodia di Gomorra del Jackal, lei? A me di Jackal mi hanno fatto un cazzo. Sta senza pensiero. Beh, la nonna che dice le parolacce è straordinaria. Io sono innamorata di Nonna Rosa. C'è sempre qualcuno più de Jackal di te. Sì. Stefania, per salutarci ti posso chiedere quali altri autori di satira in video dobbiamo tenere d'occhio secondo te? Ti porti nel nuovo anno scolastico, chi ti può? Di sicuro, allora, i The Pills sappiamo che sono sbarcati su Mediaset, andranno su Rai con questo zio Gianni e quindi sicuramente sono interessanti. Io punterei molto anche però su quelli del Terzo Segreto di Satira, che hanno una comicità, se vogliamo, più strutturata rispetto magari ad altri gruppi. I The Jackal hanno un lavoro sui generi, quelli del Terzo Segreto di Satira lavorano invece sulla politica, sull'attualità. E non a caso la Gavanelli se ne è accorta e li ha chiamati nelle sue ultime puntate di Report. Quindi secondo me c'è da aspettarsi qualcosa anche da loro, forse. Straordinario. Quanto è brava la Carini. È brava la Carini, ma uno resta lì e ascolta. Se proprio noi facessimo ancora RadioTube, io la chiamerei di nuovo. Non lo ma so. Ma la chiamiamo. Ma non lo so, ma comunque la chiamiamo. Anche da casa nostra, il telefono. Sì. Sì, tu resti lì, noi ti chiamiamo, niente vacanze, mi raccomando, lavora tanto. Gli ascoltatori possono trovarla al suo account di Twitter, @ Stefania Carini. Grazie Stefania per essere stata con noi. Ciao. Grazie a voi. A presto. Ciao. Stefania. Facciamo una piccola pausa e poi parliamo di due argomenti. Due, dicasi. Vorrei provare a parlare di calcio e di sport, visto che in questo periodo un po' di cose sono successe. E poi lo facciamo un bilancio un po' di così tecnologie, visto che le tecnologie... ci hanno accompagnato per tutte queste puntate. Sì, le cose che ci siamo portati dalla TV alla rete. RadioTube. Rieccoci insieme dopo una breve pausa per la seconda metà della nostra 57esima e ultima puntata della stagione, almeno, chi lo sa. Dell'anno scolastico. Dell'anno scolastico di RadioTube. Sai che abbiamo un compito da fare dalla scorsa settimana? No, stavamo per dimenticarcelo. Sì, ci stavamo per dimenticare, ma zona Cesarini ci siamo ricordati che qualcuno ci aveva promesso che avrebbe postato in tempo per la nostra puntata di RadioTube il suo nuovo video. Sì. Primitivi di Manduria, no? Che la risposta è Negramaro, certo, diciamo. È il gruppo. Sì, di Pinuccio. E la canzone di Pinuccio, ovvio. Lanciala stessa montatura di occhiali di Marta. Lanciala come un DJ. Aspetta, il titolo. E adesso? Taranta voglia di lei. Pinuccio e i Primitivi di Manduria. Mi dispiace di svegliarti. Amore, quest'estate avevo pensato di andare nel Salento, così vediamo la notte della Taranta a Milpignano. Usa pevi. Per andare a Milpignano ho parcheggiato un po' lontano. Un po' lontano, se non stavo a Pasaru. Eccola qua, Taranta voglia di lei, era la storia, ce l'aveva spiegato in anteprima Pinuccio, di lei che vuole andare a ballare la Taranta, la notte della Taranta, e lui, insomma. Poi c'è Fasano bellissimo. Fasano, il Pignano, c'è tutta... Sì, anch'io sono stata in Salento. Vedi? Ebbene sì, però dai, il nostro video che avevamo promesso la scorsa settimana c'è, è online, comincia già ad avere un po' di visualizzazioni online da circa un giorno. Pinuccio l'ha postata, Taranta voglia di lei. E i Primitivi di Manduria, la risposta in Negramaro. Ebbene sì. Invece adesso abbiamo fare un altro bilancio. Sì, allora abbiamo parlato un po' di queste serie televisive che ci sono piaciute, poi parleremo anche di sport, l'abbiamo detto, parleremo anche di sport, però parliamo un po' di tecnologia, visto che sempre sotto l'ombrello della tecnologia stiamo. E quindi perché non chiamare in causa il nostro massimo esperto mondiale? È finalmente in studio, peraltro, oltre che in causa. Già io lo sento ridere, già capisco chi è, perché anche l'ascoltatore già mi ha capito. Non esagerate, massimo mi sembra un po' troppo. Medio. Enrico Pagliarini, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. 2024. Ma poi tra 10 anni cosa fai? Cambi scritto? L'abbiamo già chiesto. Lo chiedono tutti. Esatto. Allora, una delle soluzioni è chiamarlo fra poco 3024, così siamo a posto per Ah, bellissimo. Certo. Sapete che ve lo ricordate il Future Show? Sì. Sì. Il Future Show aveva come data il millennio successivo, quindi era nel 3004, ricordo, forse era addirittura nel 1998 ed era il 2998, adesso non ricordo di preciso quanti anni fa venne lanciato il Future Show. Comunque questa era una, come la loro logica, uno odissea nello spazio, nell'ospizio, come esatto, l'hanno che allora, sembrava una cosa incredibile, poi esatto, siamo passati. Sai chi è stata la prima persona in assoluto a Radio 24 a parlarmi di un video, dai lo dico, l'ultima puntata lo dico, virale, un video virale che io non so di non viral di video viral, non, viral. La prima persona che un giorno è venuta a darmi una, cioè la parola virale associata ai video, guarda, la prima persona che me l'ha detto è stata Enrico Pagliarini, che mi ha detto guarda c'è questo video in rete, 5 anni fa direi, sì mi è piaciuto un sacco, che è impazzito. Infatti quando gli ho detto l'altro giorno dai vieni facciamo un bilancio dell'anno, che video vuoi, quello di 5 anni fa, perché secondo Enrico Pagliarini, adesso io ne ascolterei subito un piccolo estratto, questo è il video virale, il papà di tutti i video virali, tutti i video virali. Ah, bellissimo, eccolo qua, sentiamo. United Airlines on my way to Nebraska. The plane departed Halifax, connecting in Chicago's O'Hare. While on the ground, a passenger said from the seat behind me, my God, they're throwing guitars out there. Enrico, però dobbiamo cominciare un po' a spiegare. Ambientiamolo un po' questo video. Allora, questa è una storia accaduta a Dave Carroll. Quello che canta si chiama Dave Carroll, è un cantante country canadese. Lui si trovava, racconta un fatto che gli è accaduto qualche tempo prima di registrare questa canzone. Allora, lui si trovava su un aereo, poi diciamo di che compagnia, faceva tappa a Chicago da Halifax a Omaha, quindi un volo piuttosto lungo, fa tappa a Chicago, alcune valigie vengono scaricate perché evidentemente c'era qualcuno che scendeva a Chicago. A un certo punto la signora che si trova dietro di lui dice oddio, cioè stanno tirandosi una chitarra. Allora lui si gira e vede la sua chitarra, la Taylor, ma io non sapevo nemmeno che esistesse la chitarra Taylor. Lui però so, evidentemente ci teneva parecchio. Vede questa e ci sono il personale che trasporta le valigie, che fa scendere le valigie dall'aereo, che si tirano questa chitarra, giocano, evidentemente in una pausa di lavoro, si tirano questa chitarra. Infatti poi nel video si vede, cioè tutta, insomma, viene oltre che la canzone racconta questo fatto, viene raccontata proprio tutta con la messa in scena, eccetera eccetera. Quindi lui si comincia ad allarmare, si rivolge al personale, dice no, non si preoccupi, dobbiamo ripartire, non. Allora lui poi fa un esposto ufficiale alla compagnia aerea, diciamo a questo punto che è la United Airlines, e la United per 9 mesi continua a respingere le sue richieste, dice no, non ci risulta che sia successo nessun fatto. E la canzone, a questo punto lo diciamo come si intitola la canzone, diciamolo. Allora, United breaks guitars, cioè la United spacca le chitarre, perché poi evidentemente questa chitarra è arrivata a destinazione piuttosto rovinata, malconcia insomma. Io l'ho vista ad una conferenza internazionale, dove parliamo del 2010, allora il video è del 2009, sì. Ma questa conferenza del 2010 dicevano guardate care aziende, che se qualcuno si arrabbia, perché dovete presidiare internet? Perché se qualcuno si arrabbia potrebbe crearvi dei problemi, perché su internet si possono raccontare tutte le cose che accadono, magari storie che accadono nei confronti delle aziende eccetera eccetera, e fanno vedere questo video. E tenete conto che il video in pochissimi giorni ha fatto milioni di cioè dalla pagliuzza poi una valanga. Esatto, ne hanno già parlato allora. I network americani addirittura, io poi non so se il calo di borsa della United, perché la United era in giro di pochi giorni ha crollato, il titolo è crollato del 10%, perché mi ero segnata un po' di dati, ebbene sì, cioè lo stock price è caduto del 10% sì, in 4 giorni, costando però circa 180 milioni di dollari alla United Airlines. O, sì, o non è detto una coincidenza o un comitanza di fattori, però sicuramente sputanamento della United in quel periodo è stato molto molto grande, perché ne hanno parlato in network televisivi. Ma tutti anche perché di la canzone non è male. No, la canzone è bella. A chi piace il country, sentite come fa, il ritornello, eccolo qua. United breaking. Pagliarini è pazzo di questa canzone, se l'ascolta. Beh, paradigmatico, è però accorato, cara United, avete rotto la mia chitarra. Però è stato, mi è piaciuto molto, perché un video virale di denuncia di un fatto che lui era imbestialito su, perché gli hanno rotto una chitarra che costa qualche migliaio di dollari. Probabilmente il problema non era il migliaio di dollari, qualche beh, questi sono messi a giocare a palla con la chitarra. Andava a cantare e gli è arrivata la chitarra rotta, quindi si è un po' infumanato. Poi vedendo che questi qua giocavano, insomma, si è diventata una bestia. Però, oltre al tentativo per 9 mesi... La lezione è molto chiara. Sì, oltre al tentativo di 9 mesi di proteste, la United che diceva no, noi non c'entriamo niente, non... lui ha fatto una canzone. Quindi in modo molto col sorriso sulle labbra ha fatto una canzone, poi una bella canzone, quindi mi è piaciuto questo modo di reagire. Sì, sì, però la lezione è quella lì, attenzione che poi sulla rete uno racconta una cosa, mette un video, va contro. Bisogna essere bravi. Io me la sono ascoltata per dopo il 2010, me la sono ascoltata. Poi rimessa nell'iPod all'epoca. Esatto. Ogni tanto l'ho fatta anche ho fatto vedere il video, sentire la canzone quando si parlava di video virali o comunque della capacità di internet di far conoscere ad una massa molto, molto grande un fatto che uno è accaduto. Ma anche piccolo, sì. Sì, anche piccolo, però mi sembra una bella storia. Enrico, un anno scolastico, United, come dice Breaks Daniele, di 2024. Sono cambiate tante cose quest'anno. Quanto ti hanno chiesto di più gli ascoltatori di parlare di social network, di Twitter, di Facebook? Sì, i social network stanno diventando, purtroppo per tutto il mondo dei media tradizionali, ormai non si può più dire the new media, però se noi pensiamo che ci sono poco meno di 30 milioni di persone che girano su internet in Italia e circa 25 milioni che usano the social network, quindi Facebook. Ma anche gli altri social network, beh, capiamo che la audience di questi media è molto importante. Naturalmente dietro alla audience si trascina soprattutto l'investimento pubblicitario che si sta spostando su internet e si sta spostando sui social network e si sta spostando, aggiungo il terzo punto, che è un tema di dibattito e di discussione, su media americani. La pubblicità fino a qualche tempo fa era un business italiano, comunque locale. Oggi stiamo assistendo a uno spostamento di valore verso queste grandi aziende internazionali che per... gente che come noi vive di pubblicità insomma crea adesso a noi qualche non problema tanto, però apre anche il mercato, apre sicuramente il mercato. Devo dire che a proposito della domanda di tecnologia, negli ultimi mesi soprattutto nel secondo semestre abbiamo visto esibizioni, o quadrimestre visto che parliamo di scuola, abbiamo visto esibizioni tecnologiche abbastanza inutili. Cioè, mi spiego, l'esempio classico che si fa sono gli smartphone già da 2 anni almeno sono quelli, non abbiamo visto dei cambiamenti incredibili, no, migliorano tutte le caratteristiche, però infatti uno dei dati di cui parliamo anche questa settimana 2024 è che tutto il mercato cresce come qualità e chi vince? Quelli che costano poco, perché non trovi più nulla di particolarmente affascinante. Non c'è più l'oggetto rivoluzionario nuovo. Sì, sì, perché anche la storia degli orologi non ha preso. No, gli smartwatch non sono diventati molto sexy. Non quanto gli smartphone. Vanno invece abbastanza bene sul mercato, però parliamo di numeri pochi milioni. I braccio. Sì, certo. Quando parliamo di queste cose, parliamo in termini di milioni. Cioè. Sì. Vanno abbastanza bene invece i braccialetti che ti controllano la tua attività fisica, che quindi ti dicono quanto hai corso, quanto hai dormito, che anche dei risvolti sanitari sulla salute, seri. Sì, sì, è sicuramente un'evoluzione molto interessante. Io non sono particolarmente interessato a sapere costantemente, ma perché il problema è nei miei confronti, ma tutti quelli che non si muovono tanto, che non fanno tanto sport. Ah, io guarda. E che cosa fa il braccialetto che ti te lo ricorda, ti sgrida, esatto. Dice guarda che ti sei mosso poco, quindi io sono un po' disinteressato a qualcuno che mi pizzica e dice guarda che dovresti un po' una passeggiata, esatto, questo. Però stanno avendo un discreto successo. Che cosa invece ti ha appassionato quest'anno? Uno dei miei cavalli di battaglia, capisco che non è molto sexy, è la banda larga, la fibra ottica, quindi qualsiasi è sexy, diciamolo. Sì, però sì, giustamente la regia ci dice viva la fibra. Pagliarini l'ha detto, un uomo serio, un giornalista serio come Pagliarini. Dunque, la banda larga. La banda larga è un tema... Perché la cagnola non si riprende più dalle risate, quindi conduco io adesso. La banda larga è un tema importante che dovrebbe diventare sempre più importante anche a livello politico. Anche noi giornalisti dovremmo parlare molto più di banda larga. Però Devo anche dire, perché la velocità poi si vede nel ancora. Vedere le cose, sì, non l'abbiamo completamente persa, però la banda larga c'è, è Fabio velocità. In regia, ci guardiamo e ridiamo per questa affermazione. Sì, no, altre cose che mi hanno particolarmente appassionato, citerò le auto automatiche, le auto... Allora, senza pilota, no, sì. Allora, senza pilota non ci saranno forse mai. Comunque, insomma, però le provano molti. Sì, le stanno provando, sono un grande successo, ne ho viste alcune e mi sono piaciute molto perché effettivamente fanno quello che si dice. Poi sappiamo tutti che, soprattutto per motivi di responsabilità, le assicurazioni non so quanto saranno contente, ma soprattutto le case automobilistiche, perché dicono no, col cavolo che io prendo tutta la responsabilità. La responsabilità del pilota rimarrà sempre. Quindi, prima di vedere automobili completamente automatiche, semmai la tecnologia già serve per spendere meno con le assicurazioni, con le scatole utilizzate per controllare. Sì. Però sul controllo della guida direi che una delle tendenze che vedremo molto, molto presto sarà la guida assistita. Vabbè, insomma, abbiamo delle prospettive aperte per il prossimo anno scolastico, anche di 2024. Yes. Sì, per i prossimi 10 anni. Per i prossimi 10 anni teniamo lo stesso titolo. Sì. Radio Tube. Ma come volano 57 puntate quando ci si diverte? Quale ti è piaciuta di più di queste 56? No, scherzo. Non possiamo dire volano. No, io ho una mia preferita. Sì, una diccelo, assoluta. Che così andiamo a scaricarla sul podcast, sì, che resterà il podcast a quella, futura memoria. Sì, la mia preferita è quella di Verona, quella che abbiamo fatto a Vinitaly. Ah, carina. Sì. Quella di Verona. Sì. La mia preferita è la prossima. Sì. Comunque, adesso andiamo avanti. Parliamo un po' di sport. Sì. Perché ne abbiamo parlato tanto in questa annata di RadioTube. Perché lo sport e i social network hanno avuto una un grande. Ah, dai, una delle mie. Dimmela su. Non ha preso. Cioè, mentre la televisione, le serie TV, i comici, la politica. Questo è forse l'anno 1, 2, 3, comunque sta prendendo, che il social network è importante, fondamentale, unico, guardi la TV mentre twitti, sullo sport prende meno. Cioè, nonostante i record dei mondiali? No, nonostante i record, sì, commenti, però non è, i due fenomeni non sono così intrecciati, non c'è che qualcosa dei social network finisce nel calcio, qualcosa del calcio, non so come dire, non sembrano vasi comunicanti, ecco. Senti, questo. Lo chiediamo al nostro esperto preferito di calcio e c'è di sport. Delirio al Maracanà. Il nostro nazionale? Sì. Il nostro nazionale di RadioTube, buonasera Dario Ricci. Buonasera ragazzi, come sempre troppo buoni. No, troppo buona. Gentile tu, perché ti abbiamo disturbato, che sei appena partito per le vacanze. Noi niente, implacabili, ti disturbiamo al telefono. Però ci tenevamo ad averti in quest'ultima puntata di RadioTube, la 57esima. Hai sentito questa teoria di Daniele, secondo cui... Teoria ardita quella di Daniele, perché comunque è pur vero che ogni evento sportivo scatena... abitualmente una miriade di commenti via Twitter, anzi si cerca la battuta più efficace, poi quando c'hai dei campioni come Balotelli, no? Insomma, qualcosa sui social network succede sempre. Non dimentichiamo che poi quello che al di là del pessimo curriculum che si è fatto a posteriori, sdoganò Twitter in Italia fu Lance Armstrong, che durante la sua partecipazione al Giro cominciò a comunicare anche via Twitter per noi. Ed era appena 3-4 anni fa, sembrava uno arrivato dalla Luna a comunicare così. Oggi ho visto come ci ritroviamo. Insomma, oggi abbiamo RadioTube, mica poco. Dario, tra l'altro, ma senti, non è un caso che il nostro nazionale, che è il nostro preferito, Dario Ricci. Senti, Dario, quest'anno mi viene subito da pensare, io sai che poi sono un'appassionata di gossip e ti sfriccico sempre sul gossip, non solo in onda, ma anche proprio in redazione. Quest'anno, la proposta di matrimonio di Mario Balotelli a Fanny col brillocco postato su Instagram, le foto del triangolo amoroso di Cardi, anche quello, Maxi Lopez, anche quello su Instagram, stanno imparando in questi mesi i giocatori a fare un po' più i bravi. Parlo di giocatori di calcio perché soprattutto loro ne hanno combinate un po'. Secondo te stanno imparando? Direi in rete piano piano qualcosina sta migliorando. Nel caso di Balotelli abbiamo visto che è finito in fuorigioco almeno un altro paio di volte anche dopo i mondiali. Sì. Cardi, devo dire che tutto sommato all'insegnante in casa, perché Wanda Nara è decisamente più attiva di lui e lui la segue, insomma. Sembra che però al momento abbiano trovato un attimo di pace. Lei ufficialmente si è ritirata almeno da Twitter, non so se dagli altri 200.000 social network. Sì, ce n'è sempre uno nuovo. Il resto lo fa il talento individuale, diciamo così. Sì, però sì, vedi, c'è il meccanismo della celebrità, sono VIP lì, non è lo sport, non so come dire, sono seguiti, discussi in quanto star più che in quanto sportivi. Ecco la teoria bellasiana. Quello è vero, però è vero pure che così come se noi litighiamo con la moglie o la fidanzata, probabilmente al lavoro saremo meno performanti e più nervosi. Stessa cosa potrebbe capitare a un portiere di calcio, e ogni riferimento non è casuale. Ma per caso. O a un tennista, cioè è difficile separare lo sportivo dall'uomo, dalla donna e da poi come comunicano la loro immagine. Quindi, verissimo. Che sono intrecciate le cose. Vabbè, non possiamo parlare però di... Com'è difficile separare il dirigente sportivo. Noi è un video un po' visto, diciamo. Un po' visto, però noi lo diciamo, quello che ha fatto discutere la rete. Ci siamo trattenuti per un po', però non possiamo proprio ignorarlo per sempre. Dai, siamo agli ultimi minuti del nostro RadioTube, andiamo a recuperare uno dei video malauguratamente più condivisi nell'ultimo periodo. Di accoglienza sono un conto, le questioni del gioco sono un altro. L'Inghilterra individua dei soggetti che entrano se hanno professionalità per farli giocare. Noi invece diciamo che Pogba è venuto qua, che prima mangiava le banane, adesso gioca titolare della Lazio. E va bene così. In Inghilterra deve dimostrare il suo curriculum e il suo pedigree. Su pedigree non era male, eh? Su pedigree non era male. Su Twitter è successo il filmone, campagne contro campagne. Secondo solo campagne. Al momento dell'addio di Conte nella mia timeline. Nella mia secondo di brutto, eh? Diciamo che l'addio di Conte. Ma chiediamo a Dario delle due cose, quindi, certo, no? Dario, che anche Dario si sta applicando sui social network e su Twitter. Devo dire che su questa di Tavecchio sei stato tirato in ballo, spesso. Ma sì, sicuramente, perché comunque tra l'altro la battuta viene facile, perché onestamente l'ho scritto via Twitter, posso pure ripeterlo, che è il problema della frase di Tavecchio, oltre al contenuto, è che era l'unica in italiano in un discorso che è apparso più sconclusionato e senza filologico. Ecco, sicuramente non è una battutaccia, ma dà un po' il quadro del personaggio, forse non all'altezza del ruolo che potrebbe ricoprire. Detto questo, è chiaro che poi ogni scivolata, ogni buccia, in questo caso di banana, viene moltiplicata dai social network. Sì. Insomma, non a caso la è diventata valanga questa palla di neve, prima su Twitter e Facebook, e poi è entrata nei media tradizionali. Esatto, c'è chi dice proprio questo, che questa è stata la prima volta che una valanga è nata su Twitter ed è finita sui giornali, invece di solito accade il contrario. Che ne pensi? Sì, è proprio, ma è il nostro ormai modo di fare informazione. Noi dobbiamo ancora abituarci, ma ormai è così: quando un determinato evento, una determinata situazione arriva a un determinato numero di tweet o di post o di like, diventa una notizia di per sé, quindi certo, non può essere ignorata. Certo, è un bel problema, perché devi stare con l'iPad acceso, il PC, con l'iPhone, insomma, diventi tu stesso una periferica, insomma. Però bello che il social network colma le lacune anche dell'informazione tradizionale. Tra l'altro il social network va anche a ripescare nel passato, perché non era la prima, tra virgolette, gaffe, e questo sostantivo lo utilizziamo con tutte le cautele del caso, perché Tavecchio si era già espresso in maniera abbastanza controversa in una puntata di Report. E cosa fa la rete, che non perdona? Va a ripescare anche nel passato. Anche in modo non del tutto, perché qui la frase è più controversa. Cioè, però qui c'è un po' di malizia. Ascoltiamola. Noi siamo in questo momento protesi a dare una dignità anche sotto l'aspetto estetico della donna nel calcio. Ma in che senso sotto l'aspetto estetico? È perché finora si riteneva che la donna fosse un soggetto handicappato rispetto al maschio, sulla resistenza, sul tempo, sull'espressione anche atletica. Invece abbiamo riscontrato che sono molto simili. Beh, devo dire che purtroppo l'espressione non era felicissima, quindi magari non voleva dire esattamente quello, ma anche volta precedente. Soprattutto l'altra volta non c'è stata la valanga, quindi vuol dire che non aveva destato. E diciamo che ha un po', c'è un po' di problema di comunicazione. Sì, beh, questo. Ma vorrei per gli ultimissimi minuti di Radio Tube, ecco, sollecitare entrambi su un argomento che piace a entrambi, che è il ciclismo. Sì. Dario Ricci, si è concluso anche il Tour de France. Cosa diciamo di Nibali? Beh, lo squalo è stato eccezionale, è stato straordinario. Non a caso vi parlo dalla Normandia, quindi sono venuto proprio quasi ad omaggiare le terre attraversate da questo Tour. Però devo dire che chiaramente tanto grande, straordinario, splendida l'impresa storica di Vincenzo Nibali, quanto in fondo rimane sempre quello scetticismo cui purtroppo il ciclismo ci ha abituato, perché non dimentichiamolo che 15-20 anni di albi d'oro sono stati cancellati dai laboratori antidoping. Quindi un grandissimo applauso a Vincenzo Nibali, la preghiera che posso fargli da tifoso e da appassionato è che non ci deluda e che insomma fino a provetta contraria deve veramente rimanere il più grande campione che abbiamo nel nostro sport. Abbiamo l'hashtag fino a provetta contraria. Un bel volto, simpatico, comunica senza, anche quando non comunica, un bel sorriso, si morde il labbro, è timido ma nello stesso tempo è leader, è un bel personaggio, a me piace come... quasi più come personaggio che come modo di correre. Ero più fan di altri tipi di corridori, però lui è un bel italiano. Poi sicuramente il fatto che arrivi dalla Sicilia, una Sicilia che ci ha regalato tantissime medaglie, no? Pensiamo anche a quelle della scherma che sono arrivate quest'estate. Ci piace insomma questo sud che ritorna sul podio. Lo squalo dello stretto. E poi, a differenza delle ragazze dello scherma, non fa la H, che era veramente brutta. Basta per concludere con i video. L'autogol dell'anno, parlando con Arianna Enrico, mi sono permesso di dirglielo, dico: Arianna, tutto bello, splendido, però quella H è un po' da rivedere. Dico: chiedete aiuto a Elisa Di Francesca, che avendo vinto ballando sotto le stelle, qualcosina in più di ballo ne sa. Insomma, forza ragazze, miglioriamo questa H, perché altrimenti ci infilzano. grazie a Dario Ricci, il nostro nazionale di Radio Tube, che è stato con noi. Buone vacanze, un abbraccio. Buone vacanze anche a voi, tornate presto, che già mi mancate. Chissà. Grazie Dario, grazie. Ciao. E noi dobbiamo salutare. E quindi buone vacanze a tutti. Ma secondo me, no, dillo tu. Immaginiamo di tornare a settembre. Impressioni di settembre. E ci studiamo qualcosa, ci inventiamo qualcosa. Di nuovo. Poi, in questo periodo, comunque ci possono contattare attraverso i nostri account di Twitter, @DiBellasio, @MartaCagnola, e sempre col nostro hashtag cancelletto RadioTube. Però, se volete anche una lettera di carta, potete ogni tanto a casa. Anche una letterina di carta, va bene così. Buone vacanze a tutti. Ciao.